È già Natale, io non ci sto dentro. Riprendo a tema a tempo, ci stava dentro. Poche speranze, lavoro a parte. È uno stipendio che manco arriva già parte. La neve è caduta sulle strade di ghiaccio. I pensieri scivolano, li scrivo prima che cascano. Luci illuminano via piazzali, Babbo Natale arrampicati ai balconi delle persone normali. Chiuso nella giacca a vento quando giaccio al freddo. Non mi suona bene la frase ma resta il senso. Fuori dal freddo e dallo sguardo esterno. Aspetto il sole per col cuore caldo anche l'inverno. E mi dico l'anno che verrà sarà diverso. Nel taschino lucio che mi scrivo un po' perplesso. Se fosse uguale, se fosse meglio. Mani giunte in preghiera, Dio mi ascolta, faccio del mio meglio. Lungo la strada solo lo stereo acceso. Entro in fissa spesso mentre canto preso. La strada è dritta per lo più, per lo meno. È verso casa archivio un altro giorno nero. Il nuovo anno è iniziato, quasi non l'ho notato. L'assicurazione è scesa, mi sa che hanno sbagliato. Che le cose buone quasi non le accetti. Abituato a troppi delitti imperfetti. E guidi quasi a memoria, la cosa funziona. Bene, dici l'orario perché non c'è coda. Penso quando arrivo a casa a scrivere e cantare. E poi alla fine finisco per cazzeggiare. Sono un pesce di natura introversa e compatta. E non so manco nuotare in una vasca. Ora metto sulle chiavi in tasca. E un altro giorno va via e passa.